Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Di Gigi Donelli, Alessandro Schirano, Gianmarco Ferronato in regia, naturalmente tutti i nostri colleghi del Sole 24 Ore di Radio 24 che partecipano a questo racconto della settimana. Intanto un caro saluto a tutti voi. Io partirei dalla Presidente della Commissione Europea. L'abbiamo lasciata volutamente in inglese, così la possiamo apprezzare nella sua breve interezza, sono 40 secondi. Le è stato chiesto dai colleghi di RTBF, che come credo sappiate fanno parte della rete delle radio europee, di cui Radio 24 fa parte, quali sono stati di fatto i capitoli più importanti del suo anno alla guida della Commissione. La sentiamo. Of course, very important is the European Green Deal and our second priority, the digital decade for Europe. But if I look back, I would say Next Generation EU, this big package that needed the unity and the strength of 27 member states and all the European institutions in a moment of deep, deep crisis. This was the best moment because I felt again this power that the European Union can develop when we work together as 27 with the European institutions. Insomma, la dice Ursula von der Leyen, ovviamente, l'European Green Deal, che poi è di fatto era il titolo della sua mandato come Presidente della Commissione, se non ci fosse stato il Covid, il decennio digitale, la trasformazione dell'Europa, però poi dice, se guardo indietro, devo dire che il Next Generation EU, questo pacchetto complicato e importante, è stato il momento più importante perché tra l'altro ha messo insieme delle forze, la capacità, ecco, dell'Unione Europea quando collabora, quando i 27 collaborano. Ma siccome non è sempre il caso, o meglio, all'interno poi di questi capitoli ci sono le divergenze che portano le trattative attuali. Abbiamo chiesto a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, di darci una mano a fare il punto. Intanto, buongiorno Beda, grazie di essere con noi. Buongiorno Gigi, grazie a voi. Allora, direi che messa e bilancio o bilancio e messa sono il primo grosso capitolo. Direi di sì. Comincio dal meccanismo europeo di stabilità. Dopo un anno di tira e molla, questa settimana i ministri delle finanze della zona euro hanno finalmente deciso di dare il loro benestare finale all'accordo che era stato trovato alla fine del 2019. Viene riformato questo organismo della zona euro che da adesso in poi potrà diventare il paracadute, il salvagente del fondo di risoluzione bancaria. È tutto molto tecnico, l'obiettivo fondamentale è di far sì che l'unione bancaria e il tessuto bancario dell'unione monetaria sia più forte in un momento di crisi finanziaria. Evidentemente il momento è molto delicato da un punto di vista economico e quindi l'accordo è interessante dal punto di vista della tempistica. L'accordo c'è, a questo punto bisogna ratificarlo nei vari Paesi membri, vi sono margini di incertezza in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, ma bisogna sperare che l'operazione ratifica vada in porto. Ecco. Questo è Di tutto questo, naturalmente ricordo gli ascoltatori, i nostri GR sono pieni della polemica interna, la fronda, Movimento 5 Stelle, eccetera, eccetera. Stiamo parlando esattamente di questo. Prego, Beda. Secondo punto è il bilancio comunitario 2021-2027. L'accordo fra Consiglio e Parlamento è stato ottenuto ormai un paio di settimane fa, sappiamo che Polonia e Ungheria si stanno opponendo all'approvazione definitiva di questo pacchetto finanziario, lo stanno facendo perché sono infelici di un regolamento che è stato negoziato in parallelo e che vincola, per così dire, l'esborso dei fondi comunitari al rispetto della democrazia, al rispetto dello Stato di diritto nei Paesi membri. L'obiettivo di questo regolamento è quello di proteggere il bilancio comunitario dalle frodi di cui è spesso vittima in alcuni Paesi membri. Allora, Polonia e Ungheria non sono d'accordo con questo regolamento, stanno per il momento bloccando l'approvazione definitiva del bilancio. Mi sembra che ci siano i primi segnali di ammorbidimento, soprattutto da parte polacca. Entrambi i paesi sono importanti beneficiari del bilancio e quindi bisogna immaginare che a un certo punto un compromesso, un accordo si trovi. Alla fine della settimana prossima c'è un Consiglio europeo e potrebbe essere l'occasione per risolvere la situazione e permettere quindi al bilancio di entrare sperabilmente in vigore il 1 gennaio del 2021. E quindi attivare tutti quegli altri meccanismi di cui appunto stiamo parlando di fatto ormai da mesi. A proposito dei distinguo tra i due paesi, tra la Polonia e l'Ungheria, come diceva Beda Romano un momento fa, segnalo che venerdì mattina, Orban, quindi il primo ministro ungherese, ha pensato di dover dichiarare che se anche la Polonia avesse trovato un accordo, l'Ungheria, il suo governo, invece sarebbe rimasto fermo sulla posizione. Insomma, una sorta di quantomeno ammissione sul fatto che gli interessi tra i due paesi non sono necessariamente identici. E poi c'è un clock di cui volevo chiederti. Se guardate, a me capita di farlo così, ho ormai preso l'abitudine di guardare quello che, googolando Brexit Transition appunto del sito del governo britannico, vedete un numero che oggi è il 27 days to go alla fine del periodo di transizione. È iniziato il 1 gennaio scorso, come ovvio scade a fine mese. A che punto siamo, Beda? Tutte finali di questo negoziato difficile, lungo, è durato alcuni mesi ed è un negoziato che porta su l'accordo di partenariato che deve gestire il rapporto tra l'Unione Europea e il Regno Unito. Il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea il 31 gennaio di quest'anno. In quel momento è scattato un periodo di transizione che ha permesso alla Gran Bretagna di rimanere formalmente parte del mercato unico e dell'unione doganale. Questo periodo di transizione termina il 31 dicembre. Entro quella data Bruxelles e Londra devono trovare un'intesa sul futuro delle loro relazioni, altrimenti la Gran Bretagna uscirà dall'oggi al domani dal mercato unico e dall'unione doganale senza salvagente, senza paracadute. Le parti vogliono evitarlo, la Gran Bretagna ha interesse ad evitarlo, in modo particolare perché è quella che ha più da perdere da questa situazione. Si sta negoziando fino all'ultimo, è possibile un accordo a breve. Non è ancora probabile perché la situazione è molto complicata. Tre sono gli argomenti su cui è difficile trovare un'intesa tra le parti, e sono il regolamento della pesca nel mare del nord, l'accesso della Gran Bretagna al mercato unico europeo rispettando le regole del mercato unico europeo, e poi il governo o la soluzione delle controversie tra le parti successivamente al 31 dicembre di quest'anno. Come dicevo prima, i segnali lasciano intendere che un accordo sia possibile a breve, ma evidentemente c'è ancora un margine di incertezza. Trattative ad oltranza, dunque, come avete sentito, ci avviamo verso la fine di questo complicato anno e tanto sul fronte del bilancio, del MES che della Brexit, la parola fine, o meglio, quantomeno per concludere, dei capitoli, cui poi naturalmente ne seguiranno degli altri, devono ancora essere scritti. Grazie a Beda Romano di essere stato con noi. Grazie molto, a presto. Trattativa, insomma, questo è un po' il destino, il cruccio, il limite a volte dell'Unione Europea, ma questo è il meccanismo di un'organizzazione composta da 27 stati. Avremo di che parlarne e di che raccontarvi nelle prossime settimane. Adesso aggiornamenti per chi è in viaggio e torniamo in una seconda parte in cui ci occupiamo, se vogliamo, di cose un po' più pratiche da un certo punto di vista e magari un po' meno complesse. Europa, Europa. Gianmarco Ferronato in regia, Alessandro Schirano, Gigi Donelli, Europa, Europa. Nella seconda parte ripartiamo dal mondo importante, importantissimo, della produzione medicale. Oggi, sapete, nel mondo vengono impiantate circa 400.000 protesi cardiache all'anno e entro il 2050 è previsto che ne vengano impiantate circa 1 milione a causa dell'invecchiamento della popolazione. Horizon 2020 ha finanziato, tra l'altro, una startup veneta, si chiama BCI, che ha progettato valvole cardiache biocompatibili che durano 20 anni rispetto ai 10 attuali. Silvia Bernardi ce lo racconta e ne parla con il biologo Alessandro Gandaglia. Di programmi europei abbiamo sicuramente sentito tutti parlare. Sappiamo anche che sono quello strumento che l'Europa usa per finanziare imprese, ricerca, cultura, formazione. Alcuni sono più famosi di altri, ad esempio Erasmus, Europa Creativa, Horizon 2020, e sono quelli che hanno anche più fondi. Ce ne sono altri meno conosciuti, come il programma Giustizia o il programma per la tutela dei consumatori. Tutti insieme valgono più o meno 200 miliardi di euro, che vengono distribuiti tramite bandi. Ecco, questa è la teoria. Il modo migliore però per capire cosa sono realmente è seguire i finanziamenti e vedere a cosa portano. Oggi seguiamo 50.000 euro di Horizon 2020, il programma europeo per la ricerca scientifica, che ci porta a Este, in provincia di Padova, dove una startup di ex ricercatori universitari, medici e biologi, hanno creato valvole cardiache biologiche che durano il doppio rispetto a quelle tradizionali, che oggi durano circa 10 anni. Questa ricerca tecnologica, supportata dalla Fondazione Golinelli per un totale di 1.340.000 euro, compresi i finanziatori privati, sta attirando l'interesse di player internazionali cinesi e statunitensi. Il perché ce lo racconta Alessandro Gandaglia, uno dei biologi fondatori, insieme a Filippo Naso e Ugo Stefanelli, di BCI, che sta per... Biocompatibility Innovation, BCI, è un'azienda che è nata nel 2014 sulla scorta di esperienze precedenti a livello di ricerca, anche in ambito universitario, e si occupa di migliorare la biocompatibilità dei tessuti biologici che vengono utilizzati per la costruzione di specifici medical device. In questo caso parliamo più da vicino di valvole cardiache. Le valvole cardiache hanno una caratteristica di durata limitata nel tempo, a 10-12 anni circa, dopodiché vanno incontro a una serie di fenomeni degenerativi, tra cui la calcificazione, la trombosi e altri fenomeni degradativi della matrice, cioè del tessuto che costituisce le valvole stesse. Quindi ad un certo punto voi avete capito che la soluzione poteva essere quella di creare valvole che durassero di più nel tempo. Certo, le valvole che durano poco hanno anche un impatto economico non indifferente. Innanzitutto la qualità di vita dei pazienti deve essere migliorata e secondariamente vogliamo abbattere quelli che sono i costi relativi all'intervento chirurgico in quanto tale e ai costi sociali, perché questi pazienti poi vanno incontro a dei periodi di riabilitazione e quindi a ore di lavoro perse loro e anche da parte dei loro familiari. Quindi in sintesi durare di più significa per noi farle durare almeno il doppio, inibendo o rallentando in modo significativo tutti i fenomeni degenerativi che oggi affliggono questo tipo di dispositivo medico. La vostra è una startup che è iniziata proprio con un finanziamento europeo. Allora, che cosa significa l'Europa per la ricerca? Sì, è stato molto importante per noi presentare i primi dati ai congressi scientifici e ci ha permesso questo tipo di attività divulgativa di entrare in contatto anche con l'Unione Europea. Abbiamo scritto un progetto Horizon 2020 e fortunatamente lo abbiamo vinto, e anche grazie a questo tipo di finanziamento abbiamo potuto procedere nella sperimentazione e quindi avere risultati ulteriori a dimostrazione del fatto che le valvole cardiache che verranno trattate col nostro sistema da parte delle aziende manifatturiere, perché noi non produciamo valvole ma un sistema che ne migliora appunto la durata e la biocompatibilità, ci ha portato appunto ad avere. Grazie anche a Silvia Bernardi. Quello che sentite in sottofondo ovviamente è un treno, certo in questi tempi complessi, insomma, viaggiare è l'eccezione. Alcuni di voi avranno avuto l'esperienza comunque di un viaggio di lavoro in treno in situazioni, come dire, spesso un po' surreali, del vuoto pneumatico. cercando di proiettarci in avanti o indietro, se volessimo, il treno, che è il tema di cui parliamo adesso, rimane l'infrastruttura non solo fisica, più capillare non solo del nostro paese, ma dell'intero continente. Ecco, il prossimo anno l'Unione Europea ha deciso di celebrare l'anno del trasporto ferroviario. Questo per sottolineare e insistere sui benefici del trasporto ferroviario per i cittadini, per l'impatto ecologico, ambientale incontrovertibile, innegabile, realtà che però sta subendo davvero tante complessità. Insomma, era molto popolare una volta, poi siamo passati all'idea che tutto sommato sia più pratico muoverci in aereo, dimenticando magari tanti percorsi intermedi, dimenticando davvero tanta potenzialità di questo mezzo. Da una parte, dunque, tutto sembra pronto ed è presente l'urgenza di cambiare, e tanto più che all'interno dello European Green New Deal, di cui abbiamo parlato, il grande titolo della Commissione al netto del Covid, l'ambizione in questo senso è altissima, cioè l'idea di rendere il nostro continente neutrale rispetto alle emissioni di carbonio per il 2050 significa intervenire proprio anche sulle ferrovie. Insomma, ci sono molte aspettative e molte complessità. Il Parlamento europeo si è fatto portavoce dell'urgenza di questo intervento, e allora cominciamo sentendo cosa ci dice una europarlamentare, si chiama Karima Delli, è stata già nostra ospite a Europa Europa, rappresentante dei Verdi francesi. Sentiamola. La Commissione, guidata da Ursula von der Leyen, dà l'impressione di avere grandi ambizioni sul fronte dei progetti ambientali, ma questi propositi devono poi diventare realtà. È per questo che, dopo averne discusso a lungo in seno al Parlamento e poi con il Consiglio, abbiamo dichiarato il 2021 l'anno europeo del treno. Questa deve diventare un'opportunità per la Commissione per dimostrare che c'è bisogno di massicci investimenti in campo ferroviario. De manière massive dans le train. Secondo i dati di Eurostat, 20 tra gli stati membri, dunque 20 tra i 27, hanno segnalato e registrato un aumento dei passeggeri trasportati dunque in treno tra il 2017 e il 2019, tanto per l'uso domestico che internazionale. Lituania in pole position con un incremento superiore al 10%, poi la Grecia 9,4%, dall'altra parte paesi dove invece il trasporto si riduce, la Francia 2,4%, un colosso del sistema ferroviario, ma anche la Romania 4%. Ecco, questo è un caso interessante perché rappresenta anche quello che è l'obsolescenza di un sistema e le ragioni per cui le persone a un certo punto decidono di non utilizzarlo. Allora sentiamo Marian Jean Marinescu, che è un europarlamentare esponente del Partito Popolare Europeo, proprio sui problemi dei treni europei con uno sguardo alla Romania. Non viaggiamo più in treno perché il sistema ferroviario non è più all'altezza, non è sufficientemente sviluppato. Ci sono problemi con la velocità, con le connessioni, con il sistema di emissione dei biglietti. Da noi in Romania la situazione è uguale a quella di diversi altri paesi d'Europa. Raggiungere comodamente una particolare destinazione in treno è molto difficile. Muoversi in treno richiede molto tempo e direi che è tutto il materiale rotabile a non essere adeguato. Quindi da una parte l'inadeguatezza dei sistemi appunto di trasporto, che sono più o meno significativi a seconda degli stati, il fatto ancora strano se ci pensiamo rispetto alla facilità con cui organizziamo un volo aereo, che se dobbiamo andare, non lo so, da Milano in una città estera che non sia Parigi o Berlino, i biglietti per costruire il nostro viaggio devono essere davvero messi insieme come in un puzzle. Insomma, non c'è un sistema comune. Il treno è anche diventato a volte caro, selettivo rispetto a quel mezzo di trasporto popolare che è stato per tantissimo tempo. Ecco, queste sono solo alcune delle sfide che abbiamo voluto segnalarvi. Questo è un tema su cui ritorneremo. Abbiamo raccolto con i colleghi di Euronet Plus una serie di interviste con l'aiuto di Sophie Petitjean, dunque di Euronet Plus New Agency. Ve le faremo sentire in un percorso che vuole essere l'inizio di una riflessione su il sistema dei trasporti europei, naturalmente con uno sguardo specifico sul mondo affascinante, credo molti converranno con me, del viaggio ferroviario. Adesso però è tempo di salutarvi, tra un istante tutti gli aggiornamenti delle notizie naturalmente in GR24, noi ci risentiamo per Europa Europa sabato prossimo. Figli che diventano grandi, grandi scelte. Scelte che coinvolgono l'intera famiglia, come per esempio decidere in quale scuola superiore iscriversi. Ma i padri eterni vi danno una mano con gli Open Day di Radio 24. Sì, parleremo con presidi, professori ed esperti, perché in un anno complicato come questo orientarsi fra licei, tecnici e professionali non è facile in una scuola che sta cambiando volto. Un'occasione unica per noi genitori. Vi aspettiamo! Gli Open Day di Radio 24. Ogni domenica alle 11.45 con Maria Piera Ceci e i padri eterni Matteo Bussola e Federico Taddia.